La via maestra è intanto la Costituzione, quindi le ragioni sono la difesa e il rilancio dei principi della nostra Carta Costituzionale che questo governo sta mettendo pesantemente in discussione con due grandi riforme istituzionali che sono in campo. La prima è il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata e la seconda è il progetto di modificare la forma di governo del nostro paese in chiave presidenzialista o di premierato forte. Se le leggiamo insieme come vanno lette, queste due riforme istituzionali ci danno il senso di paese che vuole costruire questa destra. Un paese con un capo del governo fortemente cesarista, un Parlamento svuotato di ogni funzione, il governo titolare esclusivo del rapporto con le regioni, le autonomie locali sostanzialmente soffocate nel nulla e, a ben vedere, l'autonomia differenziata non è un progetto che darà slancio alle regioni del nord come viene venduto per poi trainare anche un sud più in difficoltà. È un progetto pericolosissimo di rottura della coesione sociale e geografica del paese, ma è anche un progetto a beneficio esclusivo dei ricchi delle regioni del nord, in cui anche le persone che noi rappresentiamo, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, disoccupate e disoccupati, hanno tutto da perdere, perché il risultato ultimo dell'autonomia differenziata sarà una riduzione generalizzata della capacità di spesa e di intervento pubblico delle regioni, ovviamente autonomizzate ma indebolite in un contesto globale, e quindi in definitiva lo smantellamento del perimetro pubblico del paese, la consegna della sanità pubblica al sistema delle assicurazioni private, la consegna della scuola pubblica agli interessi esclusivi delle imprese, la consegna di tutte le politiche pubbliche al mercato. Per questo noi diciamo che prima ancora di essere riforme di ingegneria istituzionale o costituzionale, autonomia differenziata e presidenzialismo, questo progetto complessivo di smantellamento della nostra Costituzione, è una vera e propria riforma di classe, classista, a beneficio esclusivo dei ricchi e dei potenti di questo paese. Poi ovviamente la nostra Costituzione non la possiamo solo difendere, ne dobbiamo invocare e pretendere la piena applicazione nei tanti punti nei quali oggi è disapplicata. Ne cito uno per tutti: la Costituzione fonda la Repubblica sul lavoro. Noi abbiamo un tema enorme in questo paese di dignità del lavoro sotto diversi punti di vista. Dignità contrattuale: ci sono tantissimi contratti collettivi di lavoro che non sono rinnovati. Per dare dignità al lavoro c'è ovviamente il tema del salario minimo, che deve essere comunque un salario, diciamo così, di dignità e di legalità minima della retribuzione, al di sopra della quale poi si deve dispiegare la contrattazione collettiva, e per questo, legata al salario minimo, è necessaria anche una legge sulla rappresentanza. Poi ovviamente, se vogliamo ridare dignità al lavoro, dobbiamo contrastare la precarietà dilagante in questo paese. In questa regione negli ultimi due anni si sono dimessi più di 200.000 giovani dal mondo del lavoro per cercare nuove soluzioni lavorative, in alcuni casi per andare a lavorare all'estero. C'è un altro tema che riguarda il genere, la condizione femminile. Le donne sono spesso destinatarie, sempre più spesso destinatarie in questo paese, di forme di part-time involontario che non hanno scelto come soluzione di vita, ma che è stato loro imposto. E sempre per stare ai dati della nostra regione, le donne lavorano 6-7 settimane all'anno, mediamente meno degli uomini, prendono il 30% di retribuzione in meno. Sull'autonomia differenziata, l'Emilia-Romagna è una delle tre regioni che avevano cominciato questo percorso. Bonaccini ha detto che non condivide il DDL Calderoli, ma quindi c'è un'autonomia differenziata buona e una no, secondo voi? Io credo di no. Credo che noi nell'affrontare questa battaglia non dobbiamo essere propugnatori di un neocentralismo. Il centralismo non appartiene alla storia del sindacato italiano e credo che non appartenga nemmeno alla storia della sinistra italiana. Centralista era lo Stato napoleonico, lo Stato borbonico. Centralista era lo Stato fascista. Noi non siamo mai stati centralisti, siamo per la valorizzazione delle differenze, ma il meccanismo è quello che hanno disegnato i nostri padri costituenti, quello di un regionalismo solidale, in cui le autonomie si dispiegano nel quadro di una solidarietà nazionale, di una coesione geografica nazionale, che non è solo coesione geografica, è anche coesione sociale, perché deve tenere insieme chi ha di meno e chi ha di più all'interno di tutti i territori regionali. Ho detto prima che l'effetto ultimo del progetto di autonomia differenziata, secondo il DDL Calderoli, non sarà una paventata secessione del nord, ma la secessione civile e fiscale dei ricchi delle regioni del nord. Quindi noi siamo per un regionalismo solidale e regionalismo solidale è antitetico all'autonomia differenziata, a ogni forma di autonomia differenziata.